Ciao a tutti, sono Nicola Romani, ho 25 anni, sono un agricoltore e abito a Cagliano. Ci troviamo a Cagliano in un vigneto che ho in gestione, un vigneto di Moscato Giallo, l'uva che preferisco di tutte le varietà, però è quella che mi dà più soddisfazione. Com'è che hai iniziato, Nicola? Non saprei come ho iniziato, io semplicemente ho studiato tutt'altro. Dopo la perdita di mio zio e mia nonna, mi sono sentito un po' in dovere di aiutare mio padre a entrare in questo mondo qua e poi, dopo aver capito che il lavoro che ho studiato non era per niente per me, mi sono proprio sentito preso dalla terra, da in questo caso i vigneti e l'uva. Ecco, hai usato questa definizione che a noi interessa sviscerare che cos'è, che cosa c'è di meraviglioso nella terra, nel rapporto tuo, rapporto con la terra. Cosa bella, la cosa che mi fa continuare a interessarmi, cioè è il fatto che ogni anno c'è un qualcosa di nuovo, ogni momento dell'anno è particolare. Scoprire un'erba nuova, un fiore nuovo, o conoscere qualche pianta nuova, conoscere qualche dettaglio, ad esempio nel mio settore della vigna, nuovo. Il fatto che la terra, cioè, dà tutto quello che vediamo mi prende, mi interessa, cioè non mi stufa mai, non mi stufa mai lavorare la terra. Anche con le difficoltà che in questi anni troviamo, non mi spaventa e anzi mi fa proprio, mi aiuta, mi fa venire voglia di risolvere i problemi che ci sono, come la siccità, come malattie varie o altri problemi magari più grandi, non saprei cosa. Che cosa significa essere agricoltori oggi? Come ti definisci tu? Allora, io ho iniziato con l'idea di essere un agricoltore, o anzi un contadino, un qualcosa, cioè solo un fatto magari scavare in terra, piantare una pianta e vedere cosa viene fuori. Ho iniziato così semplicemente e adesso mi sono trovato in una cosa molto grande, cioè essere un imprenditore agricolo con investimenti, con tutte cose che molto più grandi di quello che pensavo all'inizio, però va bene, ci sta anche questo nel mio lavoro e non mi preoccupa. La parte più bella, come dicevo, è andare nel terreno, scavare, lavorare, piantare le vigne oppure un albero oppure una qualsiasi pianta. Un ortaggio, perché faccio anche un po' di un pezzettino di orto, e vedere cosa cresce senza avere l'ansia di ottenere il massimo dei risultati. Non ho mai avuto il pensiero di voler il massimo della produzione, quindi mi accontento di quello che mi dà l'annata e il terreno che lavoro. La componente del tempo come gioca nella tua esperienza? Quindi, come ti senti quando vai nelle tue campagne o nelle campagne che lavori? Io so che quando ho un po' di nervosismo intorno, quando ho anche solo un mal di testa come giorni fa, io so che quando vado in campagna tutto questo passa con calma, passa proprio con la tranquillità che c'è nelle campagne, l'aria, magari i rumori che ci sono, mi rilassano. Non ci faccio mai caso, ma ogni volta che torno a casa dico adesso sto bene, dopo realizzo che è proprio la campagna, infatti faccio questo lavoro e non mi pento di certo di farlo. Adesso essere un imprenditore agricolo mi crea molto più nervosismo, però anche solo cioè il fatto di lavorare e essere in mezzo alla natura mi fa cancellare tutti i pensieri che ci sono dietro purtroppo al mondo lavorativo. La componente del tempo. Cioè in campagna purtroppo vola il tempo. Potrei tanto starci 24 ore su 24, non so come mai, ma quando sono in campagna il tempo vola e mi sembra di lavorare, di starci per un'ora e basta, e invece passano anche 10 ore, 6, 7, 8 ore. Mi hanno detto che il tempo, la catena di montaggio, il sistema dell'agricoltura ti costringe a avere dei tempi molto più rapidi rispetto al passato. Qual è la tua esperienza in questo? Sì, è vero, cioè, continuando ad aumentare il mio lavoro, il tempo è un po' più pesante perché magari devi dire devo fare questa campagna qua, devo fare un'altra campagna e quindi non mi godo non è più come all'inizio, e parlando del tempo è molto più veloce, è molto, tutto più, molto più frenetico, e purtroppo penso che sia dovuto al fatto che anche questo settore qua sta diventando molto più industrializzato. È una cosa che vedo e mi dispiace molto, mi fa un po' star male, perché non c'entra niente questo settore qua con l'industria che c'è in giro, che c'è nel mondo. Però purtroppo è cambiato tutto, e anche questo ormai si fa più per guadagnare che per raccogliere i propri frutti. E è quella cosa che in un futuro mi piacerebbe proprio togliere e tornare a fare i prodotti per me e basta, non pensare a dover guadagnare il più possibile, perché sennò non ci si sta dentro con le spese. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno, e fortunatamente anche quella della mia compagna, è avere un terreno chiuso, un'azienda agricola, ma non tanto un'azienda agricola, una casa con un terreno dove poter fare qualsiasi cosa voglio nella semplicità più totale, senza le corse delle tempistiche della cantina, dei vari uffici, godersi la vita con la natura, con degli animali, cosa che ho. Mi piacerebbe molto avere più tempo a disposizione e starmene nella natura con la famiglia e basta. Una cosa che ho pensato è che spero che i miei figli lo facciano, cioè spero che a miei figli piaccia questo lavoro qua. Altri lavori non ne vedo così rilassanti, così tranquilli. Poi si vedrà nel futuro cosa succederà, perché qua stiamo sempre andando più, come dicevo prima, sull'industrializzazione anche di questo settore qua. Ci sono infatti delle visioni abbastanza fosche per il futuro. La terra parcellizzata, così come in Trentino, verrà assorbita da grandi compagnie. E come la vedi tu? Sì, vedo sempre più terreni presi da grandi compagnie, da grandi aziende, e che non sentono il valore della terra, cioè non è che la lavorano come propria terra, come posso lavorarla io, come posso lavorarla tante persone che conosco, e quindi è, non so, è un po' uno spreco così, però è tutta una questione di cosa vuole questo mondo qua. E il poco che posso fare io lo faccio, meno per me, per la mia famiglia, per quelle persone che conosco. Io penso che l'unica cosa che si possa fare come persone è non voler tutto subito, come può essere una verdura non di stagione, volerla fuori stagione, che è una cosa che non capisco. Cioè, non ha senso volere, cioè, nel mio caso, un grappolo d'uva ad aprile, vedendo che viene da tutto un altro stato. Cioè, teniamo il terreno, contentiamoci di quello che dà in quel periodo dell'anno, e tutto credo che si possa rallentare in questo modo qua, possa un po' naturalizzarsi. Invece adesso è tutto consumismo e basta. Cibo e territorio e persona, ci sono legami? Cosa lasceremo alle nuove generazioni? Quali sono le tue buone pratiche per sostenere proprio quanto hai affermato, no? Andando avanti così, non so cosa resterà in un futuro, nel mio caso mia figlia e ai miei futuri figli, se avrò fortuna di averne. Ho paura più che si vada tutt'altra parte. Vedo che gente che va sempre più in città, e i paesini di montagna più abbandonati, più lasciati agli anziani che sono legati a questi terreni. E lì di certo non c'è i terreni, non c'è la natura che abbiamo in questi paesi. Cioè, andrà sempre peggio, e nel mio piccolo è l'unica cosa che posso fare, cioè che possiamo fare io e la mia famiglia, è accontentarsi, in poche parole, accontentarsi. Mi piace approfondire qualsiasi dubbio che ho, cercando su Google, cercando anche su vari libri di agricoltura che ho a casa. Sono un po' uno che se ha un dubbio si arrangia, e una cosa che ho voluto provare è provare a innestare in un modo da un video su internet, e ho detto: dai, voglio provare a innestare una varietà su un'altra varietà senza seguire tutti i metodi che sicuri che ci sono, che dicono in giro. E ho visto di recente, la settimana scorsa, i risultati, perché stanno iniziando a crescere le gemme da questo innesto. Ho detto: cavoli, questo è quello che voglio fare. Così, se mi viene in mente qualcosa, voglio prendere e farlo, no? Cioè, voglio essere libero di fare quello che mi viene in mente. Voglio prendere, scavare per piantare un albero di pesche che non ho mai avuto in vita mia, voglio prendere e piantarlo. Quello è una soddisfazione, dire vado per raccogliermi una pesca del mio albero, no? Doverle andare a comprare, chissà da dove arrivano, chissà che prodotti usano. Cioè, questa è la cosa che amo del mio lavoro.